Buonasera Matteo Mesiari e Bianca Guzzetta, qui per l'ultimo appuntamento a ZAM per Cronache dalla fine dell'impero, il festival di Meltemi in collaborazione appunto con ZAM. Chiudiamo con uno degli ultimi libri pubblicati da Matteo, che è Landless, una storia geoanarchica, e che in qualche modo tira le fila anche di quello che è stato di quelli che sono stati i temi principali del festival, dove abbiamo voluto affrontare questioni politiche, economiche e anche di natura estetica, però partendo dal presupposto che uno degli assunti fondamentali e urgenti del nostro tempo sia quello di riattivare certi meccanismi legati all'immaginazione e al pensiero. In questo senso, Lennes ci porta nel terreno di quella che è la territà, scusate la tautologia, e ci invita a, come dire, trovare un modo per far dialogare, almeno io lo intendo così, geografia e letteratura, e trovare una soluzione alternativa a quello che oggi in tanti definiscono il collasso. Okay? In questo libro ci sono tante storie, a partire dai tre geografi che vengono, come dire, raccontati dal narratore, ma queste storie sono continuamente intersecate alla storia stessa dell'autore, che non è esterno, ma che in qualche modo partecipa delle biografie di questi autori. Quindi io partirei da qui molto brevemente, perché non abbiamo tutto questo tempo e ognuna di queste storie meriterebbe moltissime ore, però secondo me possiamo trovare anche tre parole chiave per ognuno di questi geografi, che sono Mosè Bertoni, Élisée Reclus e Kropotkin. Sì, in realtà la cosa che a me preme dire è che il libro, molte volte i libri sembrano dei punti di arrivo, in realtà poi sono dei punti di partenza. Ed essa è la ragione per cui siamo qui Bianca e io per parlare dell'idea di territà, che è qualcosa che è stata inseguita nel libro come un concetto sfuggente, come una specie di chimera che aveva guidato una ventina d'anni di ricerche, di letture, di divagazioni, vagabondaggi anche geografici, reali, quindi la dimensione autobiografica c'è, ma il punto è un altro per me. Il punto è che proprio alla chiusura del libro, invece, ci siamo resi conto che era il momento in cui bisognava provare a chiarire veramente questa idea di territà, perché non era semplicemente una storia mia personale, non era solo la storia di questi geoanarchici, ma era proprio un concetto, che un paradigma forse, che poteva diventare utile per ragionare su una parola chiave su cui si discute tanto, una parola che è stata abbondantemente criticata, cioè antropocene, e proprio per l'idea che non ci si poteva fermare all'antropocene, ma bisognava pensare a una specie di via di uscita, perché l'antropocene portava un'idea di lutto che in un qualche modo ostacolava la visione di un dopo. Era come se ci parlasse di una distopia inevitabile, quando forse ancora qualche cosa è evitabile. E proprio per questo, Bianca Guzzetta e io abbiamo cominciato a ragionare in una maniera che andava oltre la geografia e la letteratura, per ragionare sulla territà come strumento per pensare il presente, la relazione tra l'uomo e la terra, tentare di capire come questo potesse diventare uno strumento possibile. Ma La cosa che devo dire, forse qui è una appendice autobiografica, è che io per primo, pur avendo parlato di Lennes, non avevo veramente un'idea di che cosa fosse. Dovendone dare una definizione, potevo darne alcune, ma nessuna in maniera soddisfacente, nemmeno ora credo che si possa dare una definizione di questo termine, ma è proprio questo che lo rende un progetto. E siamo qui per questo progetto, perché in realtà da prima del libro, durante il libro e dopo il libro, con Bianca stiamo montando un progetto per ragionare su queste cose, soprattutto in una dimensione anche pratica che va al di là dell'editoria e della carta stampata, ma che ha a che fare con qualcosa che ha senso con quello che si diceva ieri, per esempio con Ingold, e cioè sulla dimensione che lega educazione e speranza, cioè riuscire a trovare quelle coordinate per trovare idee concrete e pratiche possibili per uscire dall'autostrada unica dell'antropocene. Quindi il libro è stato un punto di partenza e ricordo il momento in cui a un certo punto Bianca mi ha detto: ok, ma che cos'è la territà? E io non ho saputo rispondere e continuiamo a fare questa domanda per arrivare a trovare veramente delle idee particolari che hanno delle radici profonde nel passato antropologico della nostra specie, ma non è solo questo, per riuscire a capire come reimpostare, reimmaginare la nostra relazione con la Terra. La nostra idea è che solo partendo da qui, solo reinventando, reimmaginando il nostro rapporto con la Terra, si può provare ad andare oltre, oltre l'autostrada della distopia. Allora, sì, no, quello che stavo per segnarmi adesso era, tu dici relazione con la terra, però a questo punto dobbiamo capire oggi come connotare anche proprio terra, no? Perché l'abitare dell'uomo comune in città è un abitare preciso oggi, quindi bisogna anche capire quando noi invitiamo i lettori o le persone a, come dire, reinterpretare o anche solo comprendere queste dinamiche, in realtà sono talmente chiuse nel loro abitare, che è un abitare particolare, tu hai scritto anche disabitare, no? E come fare, cioè come far passare anche questo concetto e come dobbiamo interpretare terra oggi, secondo te? Beh, rispondi un po'. In realtà non interpretando il suo pensiero, però prendendomi appunto dal punto di vista di chi si è già fatto questa domanda, è un po' quello che si diceva ieri con Ingold, la risposta. Noi dobbiamo partire dalla terra che c'è adesso, cioè non è che possiamo tornare a un passato mitico né a un futuro ideale. Il problema è che noi siamo qui in questa condizione di urbanità, di super urbanità, di desertificazione talvolta, quindi è da lì che dobbiamo partire, non possiamo cavarci fuori da questa condizione, no, dell'esistente. Però in realtà quello che penso io è che il potere immaginativo che c'è la possibilità di collocare la terra dentro di noi, nella percezione, ma di ricollocarci, di riposizionarci rispetto alla terra. Io credo che ci siano molte narrazioni di potere tra ambiente, no, e persone, no, tra uomo e terra. Forse il problema è rovesciare questa relazione di potere e credo nella forza delle comunità locali. Io non penso che si possa prescindere da un'idea di terra che non passi attraverso... andando, no, a connettere la relazione specifica che piccole comunità hanno nel rapporto con la terra, che poi il rapporto con la terra non è soltanto un rapporto ecologico, non acquista la trappola. Quando noi diciamo terra, in realtà evochiamo altro. La terra è una cosmogonia, è quello che, no, tutto quello che immaginiamo, tutti gli dèi che vengono dalla terra, i riti che vengono dalla terra. Quindi secondo me il corpo che è nella terra, Cioè, secondo me la grande trappola in cui rischiamo di cadere è che il problema della Terra sia soltanto un problema ecologico, è invece un problema antropologico. E allora, se noi lo affrontiamo così, forse è più probabile riuscire a fare uno switch, disallinearci rispetto a relazioni di potere che in questo momento, anche quando parliamo di ecologia, no, ci sono fra persone e Terra. Se riusciamo a fare questa, no, questo switch, questo spostarci proprio dal punto di vista del posizionamento di dove noi siamo e di dove è la Terra dentro di noi, probabilmente riusciamo a trovare una via di fuga. Quello che è certo è però che reimpostare la questione in termini di potere ci dice alcune cose che poi sono molto importanti per il binomio educazione e stanza. Cioè, intanto salvarci tutti. Questo è il primo punto. Cioè, se noi reimpostiamo un rapporto con la Terra, vuol dire che decidiamo che c'è una modalità per salvarci tutti, che non esistono elite di potere che avranno risorse a fronte appunto di chi non ne avrà o chi li avrà razionate. Cioè, se noi riusciamo a decostruire appunto i rapporti di poteri esistenti e immaginarci di nuovo, probabilmente riusciamo a fare educazione da una parte e speranza, partendo da quello che abbiamo comunque, senza appunto un futuro, come dire, che non è, insomma, neanche immaginabile, neanche un passato mitico. Però dal passato dei suggerimenti ci possono sicuramente arrivare, come ci possono arrivare dei suggerimenti dalle esperienze appunto dei geografia anarchici. Kropotkin cosa si è salvato in carcere perché ha immaginato il Chai, cioè immagina il Chai che lo ha salvato. E Bertoni ha dissipato invece l'avventura nella Terra, ma la Terra è anche nell'Hennes una relazione erotica. L'Hennes parte tutto dalla barista, da Dordi, che era appunto... Quindi se ricostruiamo le relazioni, no, immaginandoci in una posizione diversa appunto dentro appunto il pianeta, probabilmente riusciamo a capire cosa sia territà, che comunque è un concetto assolutamente sfuggente. Ed è un concetto, come io penso, che si faccia conoscenza, che sempre va costruito. Cioè, le suggestioni, l'apporto di chiunque si mette in questo flusso di pensiero, appunto, che è intergenerazionale, probabilmente ci dà una chiave di lettura rispetto a cosa vuol dire salvezza della specie, ma salvezza di tutti e tutte come specie. Sì, la territà potrebbe essere una casella vuota, i cui confini magari sono definibili a partire anche dalle discipline, perché quando parliamo di problema antropologico parliamo di una cosa specifica e che però va riempita con l'esperienza. Quindi forse per questo che ci sfugge, no? Perché comunque è un concetto comunque in divenire. Però, sempre tornando sul problema antropologico, a questo punto secondo me potremmo trattare un altro tema caldo per l'antropologia e non solo, adesso collegato, che è sulla bocca di molte e molti, ed è questo benedetto antropocentrismo, e che ci riporta anche un pochino ad Ingold, perché lui ne parla, e ne parla in una maniera particolare e anche, come dire, in controtendenza rispetto al megatrend in voga. Secondo me c'è molta confusione su cosa sia veramente l'antropocentrismo, su come trattarlo, se essere anti, se non essere anti, o anche su cose che vengono evocate. Spesso si parla dell'uomo vitruviano senza capire neanche cosa fosse, visto che Bianca ha portato sul piatto anche la questione delle relazioni di potere. Vorrei, Matteo, magari fare una piccola come dire, un piccolo approfondimento proprio sull'antropocentrismo. Cosa ci puoi dire a partire da Lennes, ma anche da Ingold e da quello che credi tu come geografo e antropologo? Partendo da Lennes e partendo dagli autori, che dai personaggi, dai modelli umani che ho chiamato, come dire, a raccolta per parlarci per il tipo di esperienza che ci portavano, ho sempre notato una cosa: nei geografi anarchici non c'era mai il desiderio di annullamento nella terra, non c'era mai questo desiderio di spostare l'uomo in una posizione inferiore a un'idea di terra che fosse in un qualche modo come una grande idea che andava liberata e che doveva poi schiacciare l'umanità per le sue colpe, oppure che doveva ritornare sul trono di fronte all'arroganza dell'umano. La cosa molto forte di questi geografi anarchici è che derivavano dalla loro relazione con la terra un'idea di libertà. Una libertà che aveva una ricaduta non sulla terra, perché alla terra non gliene frega niente della nostra libertà, di chi siamo o di chi saremo, ma era, come dire, uno specchio alternativo, una grande alterità antropologica in cui specchiarsi per poi ritornare all'umano. Ieri Ingold ha parlato di umanesimo e ha detto che non siamo pronti, non dovremmo sentirci pronti ad abbandonare l'umanesimo, perché non è giusto nei confronti di quelle persone che oggi sulla terra non hanno nemmeno potuto godere e nemmeno ancora oggi godono di tutti i vantaggi che il pensiero umanista ha saputo generare con quello che ha potuto creare positivo. E quindi non bisogna probabilmente affrettarci ad abbandonare l'umanesimo, l'umano, è solo una questione di prospettive, non è che l'uomo va annichilito di fronte a grandi paesaggi sterili, a una grande terra geologica che in un qualche modo ci rimette al nostro posto punendoci, ma è proprio il fatto che invece nella consapevolezza che la terra ci sposta e ci mette di fronte a una serie di limiti, non solo ci dice quanto siamo piccoli, ma anche quanto siamo grandi, anche quanto abbiamo la possibilità di creare qualche cosa di nuovo relazionandoci alla terra in modo nuovo. Non si tratta di abbassare l'uomo, non si tratta di spostarlo necessariamente, ma di metterlo nella condizione di vedere come i non umani, viventi e non viventi, possono essere degli interlocutori per vivere in un mondo migliore, tutti. Ecco, questo forse è il punto. E questi geografi anarchici tra 800 e 900, primi del 900, erano molto preoccupati invece di tirare fuori delle idee positive per fare del bene all'uomo, per mettere l'uomo al centro. Mettere l'uomo al centro non è antropocentrismo, significa mettere l'umano nelle condizioni di esplicarsi e di vivere in armonia con un mondo possibile in cui ovviamente gli interlocutori non sono solo gli umani. Che cos'è l'antropocentrismo ormai come lo intendiamo? È un mondo in cui ci sono solo uomini. Ma l'antropocentrismo forse può essere abbandonato in questo senso. Ma non è che dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca. Dobbiamo buttare l'acqua sporca e renderci conto di quanto nell'umanesimo e nel mettere, come dire, nel focus giusto l'umano possa avere un vantaggio anche di grande responsabilità della nostra specie nei confronti delle altre specie e di un pianeta che può essere migliore anche grazie a noi. Non siamo solo colpevoli. Possiamo anche essere artefici di qualcosa di positivo. Un'altra cosa che vorrei chiedervi, e secondo me vi riguarda anche magari in prima persona, perché spesso il motivo per cui ho avuto in mente anche chiamare Bianca qui è perché so che Bianca ha avuto un ruolo particolare anche in relazione al libro, all'Ennes, perché secondo me è importante dire che i libri non devono e non possono essere una mera estensione del proprio io, perché i libri devono nascere e vivere con gli altri, appunto. E qui apriamo un altro grande tema dell'antropologia, che è quello dell'alterità, e aggiungo un'altra domanda nella domanda, chiedendovi quale dinamica possiamo o dobbiamo instaurare con l'alterità. e cosa significa alterità, perché tu anche in questo libro, Lenz, appunto, hai fatto i conti con molta alterità, e questo però non ti ha escluso, anzi ti ha reso partecipe della scrittura, della narrazione e di un pensiero che altrimenti sarebbe potuto cascare, che ne so, in dogmatismi, per esempio, etichette inutili. Ma la genesi di Lenz è lo sviluppo, e poi appunto questo punto definitivo, che non è un punto definitivo, ma è un punto, e si continua a parlarne, è proprio l'idea che in realtà la conoscenza, non la conoscenza oggettiva, ma anche la conoscenza di sé, parte appunto da un colloquio fertile, di fiducia, aperto verso chi hai di fianco. Io l'ho detto prima, io credo che in realtà la conoscenza sia un fatto collettivo, non esiste appunto né l'autore, lo scrittore, l'intellettuale nella turris e burne, ma esiste invece appunto una pratica di curiosità, di approfondimento di chi è l'altro. Io credo che questo debba essere molto molto fermo. Secondo me la terra e l'alterità postulano un rapporto costante, fertile, aperto e non giudicante con chi ci sta di fianco, chiaramente tenendo fermi alcuni principi. Nella nostra appunto esperienza, appunto, che insomma noi ci dici, siamo un collettivo a due, parliamo costantemente e ci nutriamo costantemente delle suggestioni, dei pensieri, dell'esperienza appunto di pratica della vita dell'altro. Quindi io credo che Lenz, che poi è attraversato da tante donne, tanti uomini che si sono incontrati appunto per la strada, ha preso vita perché un altro incontro è stato possibile, un incontro in cui appunto queste forme, questi personaggi hanno ripreso una nuova vita. L'alterità è vita, non c'è vita senza alterità. L'altro è quello che non soltanto siamo appunto come individui, e ci aiuta tanto, siamo anche noi, siamo io e siamo sé, cioè siamo nel rapporto con l'altro, ma siamo soprattutto una comunità di viventi, e io credo che questo anche significhi alterità. E voglio ritornare sull'idea di alterità dell'altro quando c'è la possibilità di entrarci in comunione, cioè alterità significa anche riconoscere che c'è una ritualità che ci fa sentire, no, parte di un percorso nell'alterità, tutti i riti di passaggio che adesso praticamente sono scomparsi, o comunque cui si è dato una declinazione formale, non più sostanziale. E lì, in questa incapacità di riconoscere la possibilità dell'alterità, secondo me ci siamo persi anche tanti adolescenti, tante ragazze, tanti ragazzi, cui probabilmente non abbiamo nulla da insegnare con la bacchetta, ma probabilmente dobbiamo fare un percorso insieme, appunto, di passaggio, di cammino, no? In cui l'altro non è che ti guida, appunto, lo diceva ieri benissimo, in maniera molto commovente Ingold, nelle tenebre comunque ti fa vedere qualcosa, ecco. Vuoi aggiungere qualcosa, Matteo? Sì. Sì, è proprio questo, il fatto che io credo che in un momento di grossa confusione ci sia il rischio di continuare a portare avanti certi valori, come si portano avanti dei pedoni, dei personaggi, l'autore, l'intellettuale, il comunicatore, il relatore. Sì, tutta una serie di immagini che in realtà appartengono a un mondo che è consolidato, che ovviamente si è anche adattato nonostante determinate professioni di fede, anche libertarie, anarchiche, a invece la costruzione di un sé che deve diventare anche, come dire, la stessa fonte di autosostentamento neoliberista. E poi in realtà quello che alla fine ci si ritrova ad avere è la solita presenza di individui che in maniera solitaria, autarchica, egoica, egoistica si presentano e portano la propria parola a un pubblico. Il senso del fatto di essere qui assieme è fondamentalmente questo, proprio perché appunto come un collettivo a due noi abbiamo l'idea non solo di essere un laboratorio di pensiero che sta cercando di produrre idee nella, per quelli che sono i nostri linguaggi, i nostri ambienti, il fare libri, il lavorare nella scuola come fa Bianca. Non è solo un bilinguismo o un esercizio in due universi che dialogano, ma che hanno anche i loro codici e le loro destinazioni, ma è anche proprio questo fatto del capire che, e di questo erano molto consapevoli quelli che io chiamo i geoanarchici, i geografi anarchici, e cioè il fatto che l'attività di un individuo perde valore nel momento in cui non è proiettata in una collettività. E la collettività non sono le presentazioni dei libri, non sono le pubblicazioni dei libri, sono le persone che si siedono attorno a un tavolo, magari sedute su un divano in un centro sociale, e che hanno la capacità di dire qualche cosa nonostante tutto e provare anche in una condizione in cui magari non sembra tutto così spontaneo, arrivare a dire qualche cosa di onesto e profondo. Quello che noi stiamo portando qui non sono, come dire, parole scritte, ma il fatto che noi stiamo vivendo un'esperienza in cui l'idea della territà è un concetto che noi stiamo cercando di, come cop sterile, di farlo diventare figlio in un qualche modo, per poter dire, ecco, vai e prova a fare qualcosa per qualcun altro. E non è Bianca, non è Matteo, ma si chiama Territà e vediamo che cosa sarà. Sì, io chiuderei qui perché abbiamo detto delle cose molto importanti, e però i riti di passaggio, sì, certo, lo sappiamo, sono fondamentali perché scandiscono l'esperienza e legano l'esperienza della vita. Purtroppo non credo possano svanire, ma ai noi in maniera freudiana si sono trasformati in nevrosi sociali. E chiuderei, Matteo, se vuoi, puoi leggere la nota del libro, che secondo me potrebbe essere un bellissimo modo per salutarci e chiudere l'evento. Ti dico di sì, ma non mi ricordo che cosa ho scritto in questa nota. Ah sì, avevo 4 o 5 anni, non ricordo, ricordo la via, il nome, non importa, ricordo la città, Modena, le luci del pomeriggio. Mio padre mi teneva per mano, sento ancora il suo palmo. Stavamo camminando verso casa e lui mi raccontava l'Odissea. C'erano i giardini che premevano fuori dalle reti metalliche e dai cancelli, con gli odori umidi mescolati a quelli del cemento. C'erano le mie piccole gambe che salivano le pedici di Ilio, Micene, e tornavamo a Itaca. Quando provo a ricordare meglio, come un animale che fa frusciare i cespugli, appare il libro. Sempre, sempre quello, rilegato da mio padre quattordicenne, la tela verde, Lisa, con una storia illustrata del mondo. Dentro c'erano il Big Bang, la terra rossa incandescente che si raffreddava nel buio cosmico, i primi mari, la tettonica a placche e, come ovvio, i dinosauri. Ma io non ero tipo dei dinosauri, mi piacevano il Pleistocene, i mammut, i rinoceronti lanosi, i ghiacciai e i caribù, le pitture rupestri, le braci. Quel libro fantastico lo aveva illustrato Rudolf Zallinger nei siderali anni 50, e se oggi lo riapro, le pagine rovinate, fragili come velina, l'odore di stampa di un'altra era, la macchina del tempo si accende e ritorna a quel pomeriggio modenese, a una camminata che è diventata l'ossessione di una vita, piantata come un seme nella spugna del mio cervello. Uno dei primi luoghi che io ho fatto vedere camminando a Modena con Bianca è stato proprio questo giardino. Esatto, ci tenevo a questo assaggio perché da qui si evidenzia una delle tue grandi doti, e cioè secondo me quella di rendere il biografico con la scrittura, la letteratura, e quindi di trasformare il privato in collettivo. E qui chiuderei. Un caro saluto e grazie a tutte e a tutti.